Ah, è Riccardino? Aspetta che sono al telefono, Ricca, scusa. Abbassa che faccio una chiamata però. Ma da Leone alle 10 c'è qualcuno? Tranne Gianni, doppio room che ha il telefono. Ciao Riccardino, buongiorno. Riconosciuto chi sei? Chi sei? Ah, non mi hai riconosciuto chi sono? RZ subito. Dammi subito il tuo RZ. Non mi hai riconosciuto chi sono, Riccardino? Non mi hai fatto però il bagnetto. Cos'hai, le telecamere? Ancora non hai riconosciuto chi sono. Aspetta che lo dici, no, non lo so chi sei, voglio. Leoncino sono, hai capito, Leoncino. Ah, Leoncino, ehi, boh, non ti sento sempre, mi ricordo delle, mi vengono in mente le modulazioni, quelle che parlano più spesso. Come ti sta arrivando, dammi un controllo, per favore. Santiago 6, 7, Radio 5. Già va bene, già va bene. C'è stato un crollo della propagazione. Bene, bene. Doppio room, sei tornato tra di noi. Sono partiti tutti. Non c'è più nessuno, sto parlando con il muro. Ci sei ancora? Tu canale 10? Nessuno, immagino. Chi mi chiama? Ci sono, chi è che mi chiama? Ci sono. Sono a perdere. Nero, wow! Di propagazione. Mi avanti, amico di New York. Si sente, c'è un po' di queste lì, però ti ascolto bene. Com'è New York di questo periodo? No, bene. Bene. Come ti fare piace, capito? Io posso anche uscire così, figurati. Fai ad uscire così. Gobbo gobbo, so. Bene, bene. Adesso sono andato al supermercato e ho coltivato alcune antenne, ho coltivato delle mini ground plane. Ah, quando sono pronte per il raccolto dimmelo, eh. Ah, guarda che mi serve anche un rosmetro, quando sono maturi chiamami. Eh sì, quando sono pronti, fine stagione, ti chiamo e te ne prendi un po'. Così, una cassetta di rosmetri. Anche altro materiale. Insomma, avete fatto una bella tentazione, eh? Bella. No, guarda, troppo ridere quando mi ha detto, eh? È un finellotto e... No, Ho strappato il rosmetro. Come ha fatto? Cosa dirti? Il babbo se l'era anche dimenticato di questo materiale. Ehi, anche tua madre di vento, è incredibile. La roba è capita, perché la potevi fare i trasporti da una parte all'altra, mettere ordine. Deve essere caduto alla scatola dove era e... Sì. Peccato che non ti è piaciuto, perché 20 anni di piantato magari, sarebbe uscito un rosmetro gigantesco. Ai wa. Come dicati? Se gli avremmo, se gli davamo un altro, un'altra spruzzata d'acqua in questi 20 anni, usciva un Daiwa. Ehi, è bello grosso, a scale incrociate, già me lo immagino. Magari pure con l'antenna per fare il misuratore di campo. Ma mi sembra che quello ce l'abbia l'attacco per l'antennino esterno. Ho visto male alla foto, l'attacco alla massa quello. No, non hai visto male, ce li hai ancora, non ti devi ancora mettere gli occhiali, no, hai visto bene l'antennino esterno. Ehi, a quello se non lo colleghi a niente e ci metti solo l'antennino esterno e lo tieni in stazione o ti fai un giro, magari se c'è il babbo che sta modulando, ti rendi conto di come in alcuni punti le onde si toppano di più di altri, capito? Dopo ti si alza la lancetta. Già ho capito. Sì, va provato. Io ne ho uno qua con l'antennino esterno che è sempre attaccato. Prima quando avevo questa antenna sulla finestra, ogni volta che prendevo portante sentivo tic e c'era la lancetta che sbatteva al fondo scala. Ah, sono di quelle esperimenti da provare a vedere come va. Oh, ma che cosa usi per fare la voce distorta oppure sei solo tu? Sono io che mi tappo il naso. Ah sì, mi tappo il naso. E uso la stazione base con la mic gain a manetta, che siccome ha dei problemi non va proprio così, capito? Bisogna abbassare un po' il mic gain e tenere la bocca un po' più vicino al microfono per riuscire a farla uscire. È tutta da regolare. Quando mi arrivano gli altri strumenti che ho ordinato, mi ci metterò, solo che mi serviranno una ventina di giorni a farla girare bene, cioè a farla tornare a quello che era all'inizio, quando era nuova, perché l'hanno tutta smanettata, addirittura su alcune bobine mi mancava servita, e pensa cosa hanno fatto. Quindi quando chiamavi, quando chiamavano a me a Natalino eri tu? No, non è possibile, servito il segnale, con questo antennino che c'è sulla finestra non posso avere chissà quale segnale, sta sicuramente più basso, magari quelli che ti chiamavano sicuramente avevano un segnale più alto del mio. Erano più bassi? Erano ancora più bassi, ma io la potenza non la posso neanche regolare, cioè o mi senti così oppure non mi senti. Azer. Guarda, aspetta che... Però più o meno uguale, va bene anche prima. È molto bello, però vabbè, non dico, però quando vuoi. C'è un altro che vende il trio uguale al mio e la notte poco ti diverti, ci sono un bel di stazioni che puoi ascoltare. Scappa, quanto ne vuole? 99,99. Ne vuole solo 100 euro? 199, 200 ne vuole. Ah, cioè, ricordi che quando parliamo di questo apparecchio c'è quel difetto, l'inizio della tua parlata non si sente, capito? Devi premere e aspettare un secondino prima di parlare, abbiamo capito, 99,99. No, ho sbagliato, vabbè, perché il problema è il mio. Comunque 199,99. Comunque è buono perché ho visto, stavo cercando anche su internet, e gli altri costano molto di più. Ho visto che ha un certo prezzo. Cosa per adesso non ci sto pensando. Per adesso il mio problema è andare sul tetto e fare questo lavoro dell'antenna. Dunque prima di mettere a posto l'antenna, eccetera. Poi mi sistemo bene la stazione, anche perché devo spostare l'acqua di un paio di metri. C'ho il mobile, però nel mobile c'è altro in questo momento, dunque devo svuotare quel mobile, spostare qui un letto che è in mezzo ai piedi, togliere questi due piedi sono qua, mettere il mobile lì con il cavile delle antenne che arrivano dal tetto, che passano in un certo modo, e così avrò posto, anche perché se la prendessi in questo momento non saprei neanche dove appoggiarla, figurati. Però è un bel grossa, io ho dovuto mettere praticamente uno strato tra sopra una stazione base, ho messo un altro strato di gomma perché ho dovuto mettere l'altra sopra perché non ci stavo, non avevo più strati. Adesso come mi trasferisco dentro mi organizzo bene. Con tutti gli apparecchi che c'hai, se non ti organizzi bene sei un pasticcio, di fili, di cose, di questioni. La mia è un po' incasinata in stazione, però così com'è in questo momento, visto che non, tranne qualche volta quando devo magari fare qualche lavoretto, qualche apparecchio, devo attaccare un'antenna, in linea di massima non sto né scollegando né ricollegando niente, tutti i fili sono più o meno dietro, c'ho il tastino della ciabatta, premo quello, poi devo attaccare e staccare due volte l'alimentatore per caricare un condensatore e poi va. Come metto tutto dentro? Intanto tra i primi in base ci sono tutte le stazioni in base e poi sopra ci metto gli alimentatori, il transmatch e mi devo mettere anche i baracchini più importanti, gli altri li lascio qui visto che ho diverse antenne e babbo non le vuole spostare, vuole lasciare qui la direttiva, la Blizzard, il dipolo, il discone e quindi lascio qualche baracchino perché sennò qua non c'è più niente, poi ci sono solo le antenne. Capo, infatti, ti lasci la stazione così com'è, se mai ci metti un paio di antenne dove devi fatta in quella definitiva, cioè dentro. Infatti mi organizzo bene e così sono a posto, non c'è più il problema perché ieri notte stavo facendo un freddo a morire. Ero con la coperta alle gambe perché ero in pantaloncini corti. Cioè, ci credi che io a mezzanotte l'una, visto che avevo digerito di mangiare perché avevo mangiato alle 22, perché avevo mangiato neanche molto, mi sono fatto un tuffo in piscina, era un bel caldo l'acqua, quando sono uscito c'era il Polo Nord. Perché il discorso della piscina, del bagno in generale, quando lì, una volta che entri, se non è troppo freddo, lì cerchi di mangiarti bene, però poi quando uscite è freddo, cavolo. Lo credo. E così è. Io tra un po' mi stacco e vado a fare un po' di spesa. Non so se mi organizzo a fare stagione o faccio una spesa veloce, quindi non poter prendere la cosa. Adesso credo. Secondo me devi fare spesa veloce, così puoi parlare con me. Certo. E comunque non sarò l'unico, no? In questo momento già lo sai. Le orecchie di porco che ci sono, già lo sai, no? Ma non faccio nomi, però mi fa piacere parlare con te, ma ci sono quelli che sono un po' così. Quelli fanno parte del gioco. Sono le persone con le quali ti piace di più e le persone con le quali ti piace di meno, però se poi alla fine si prendono argomenti interessanti, partecipano anche loro. Anche il parere di una persona molto diversa da te magari può essere simpatico, utile. Così bisogna imparare a prendere dalle persone le cose migliori e cercare di dimenticarsi, di non stare a pensare alle cose peggiori, capito? Ognuno di noi ha delle cose belle e allora bisogna prendere quelle belle. Infatti, aspetta, spengo. Lo so, ma ci sono quelli che mi fa piacere di più, tipo te, vabbè, e altri. Lo so, saranno discorsi, però vabbè, lasciamo perdere che ci sono, come hai detto, gli orecchi di porco. deve essere sporco, siamo sempre lì ad ascoltare, a registrare, poi alla fine prende la mano il telefono e iniziano, guarda che sul 10 ci sono Alfa 21 e Fabio Master che stanno dicendo questo e questo e quest'altro, ascolta, ascolta, che poi capisco. Che gente, guarda, anche a me piace ascoltare, tante volte ho ascoltato senza entrare, magari sono andato per salutare e basta, no? Per la serie mi sto ascoltando, ho le mani impegnate, però con queste ho, ci vediamo domani. Però a stare lì a fare intramini così, che gente. Signor Portante, benvenuto! Vai Fabio Matti, tu sei un cocco! 24, 3364, io lo so il tuo numero, Danilo Snoopy. È vero. Danilo, guarda che mia madre me l'ha detto, che sta già chiamando i carabinieri. Vedi tu che ti vengono a suonare il campanello, hai capito? Vedi tu, vedi te. Vedi te, hai ragione, scusa, ho sbagliato. Un periodo ero molto più bravo a imitare qualcosa. Ma che volta ho fatto apposta a fare io la conversazione al posto suo, poi è entrato lui. Geloso. Cosa stai combinando? Goloso, non geloso. Cos'è? Che è goloso, non geloso. Ai caro, se ti mette l'acqua nei piedi, se ti vedi bagnati, sì. Avete parlato insieme, a parte di capire. Sto a Luca. Dimmi. Ciao. Ciao Riccardi. Dai, sono qua che sto, devo fare un acquisto, là, su eBay. Devo comprare un touch di un tablet. Ma cos'è finito per terra? Non l'ho fatta riparata. E non taccia più. Ma ho fermo intero. No, è filato il vetro, non taccia, non taccia. Se non taccia dobbiamo cambiare il vetro. Ma si può staccare su spesa lì? Si è già staccato. Hai capito, ma l'hai fatto a caldo con la macchinetta o a mano? No, praticamente prima gli ho levato il display che ci è attaccata la scheda madre e la batteria. E mi sono preso la cornice col touch attaccato. No, senza scaldare niente. No. Fatto diverso dal volo, ma volendo potevo anche scaldare, capito? Guarda, con me 400 euro avevo comprato anni fa, perché erano usciti i primi touch professionali, una macchinetta che dovevo portare a temperatura, per i modelli che non si può attaccare, per riuscire a staccare il vetro dalla display. Praticamente scaldava in 7 punti e poi c'era un filo che tu dovevi tendere con una tipa di molla regolabile, un filo mobilteno, se non sbaglio, tipo tungsteno strano, una consistenza, che passava girando una manopola facendo lo scorrere tra il vetro e il display, capito? Sì. Ho capito, ma la colla, quella UV? UV, no, è la colla comunque. Però devo togliere, sì, la colla che c'è lì che devi togliere è quella. Avanti, V. UV. UV, via avanti. Bio. Chi è? Oh, tu chi sei? Io chi sono? Sono io. Sono io. Per dirti, oggi stavo guardando baracchini, stazioni base e ho trovato gli Alan 48-1 che lo venne modificato a 1000 euro. Ehi, anche la mia macchina c'è qualcuno che la vende a 20.000 e a 10 anni. Ma dico, con quei soldi tu puoi comprare una cosa per il professionale, 999 euro. Ma com'è professionale? Una 48 come fatto può essere modificato, di certo. I filtri non li puoi cambiare, anche se ci metti i filtri di qualità, stanno in quel punto del circuito, perciò continuano ad avere i suoi limiti. Puoi uscire un po' meglio, ci puoi mettere la scheda EcoColt, ci puoi mettere 40.000 canali, però la scheda madre rimane quella, le caratteristiche rimangono più o meno quelle, c'è poco da fare. Come si fa? Luca, te lo compri? Cosa? Alan 48 super modificato, 1000 euro. Solo? Sì, tre, ne vuoi. è poco singotto. E su, guarda, questo dice, siccome quando la ruba vanno via come l'acqua, massimo due per ogni acquirente. Ecco, devo fare il gradasso, no? Scusa, no, ne tre. Ma li sto vedendo io, ma se vuoi ne compriamo quattro e ce li dividiamo. Io facciamo due a testa, dai, cinque, dai, due e mezzo a testa. Vabbè, Riccardo, ne vuoi un paio anche tu? Oh, scusate, non mi piacciono i veicolari. Adesso lui sta facendo il grande, capito, il grande radioamatore, non mi piacciono i veicolari. Ma se manco lo sai quanto è bello questo alla 48, cosa ne sai tu? Vabbè, dai, diciamocelo così un po'. No, non l'ho provato, però se me ne dai uno, là, un Alan 48 modificato, quello a 1000 euro mi piace, là. Ah, io fate tutti i corretti che sono fatto io. Emilio mio! Io lo prendi tu, per assaggio, per assaggiarlo, eh? Buonasera a todos! Eccolo, buonasera, avanti todos! E dai ragazzi, come va? Tutto ok, tutto ok? Tutto ok, in ruota con Riccardino, Luca, the best of the mountain, e proviamo a andare da questa. Avanti Luca, the best of the mountain, per i saluti. Cioè, così l'ho parlato che Marco si riconosce. Riccardino, saluto. Vorrei richiamare Lucrezia. Lucrezia, non si crepa. Ciao Riccardino. Ciao Giannangelo. So, io sono un angelo dal cielo disceso per il troppo peso, così diceva mia madre. Ma mi è sembrato molto pesante, no? Insomma, sui 97-98 peso. Allora già pigli qualcosa, ma già non c'è una strutturina ossea leggera, leggera, insomma, non si vede tutto questo peso. No, no, sono grosso di ossatura e alto, Ma magari, andava bene. A chi tocca, mi sembra di aver sentito anche a Leoncino, o sbaglio? Sbagli. Sbaglio? Lo stavo chiamando diverse volte, ma ormai è entrato nella grotta, non si è più fatto sentire. In tana, Scusate. E non l'ha salutato, almeno così se n'è andato. E tu eri mezz'ora al telefono. Tu non le capisci certe cose, quando sarai grande le capirai. Sta parlando di donne, Riccardo. Ecco, parlano molto, ti trattengono molto al telefono. Capito, Riccardo, di femmina sta parlando. Avevo. Ehi, già arriverà anche tu ad avere a che fare con l'universo femminile. È questione di tempo. È data la tua età, secondo me anche di poco tempo. Vedrai. Mettiti lo scudo, Riccardi, per ripararti. ce ne sono tutti i tipi, però ci vuole troppa attenzione con questi minuti, Riccardi, troppa. Oh, non ho trovato più l'annuncio, o si è vergognato a quel prezzo, oppure qualcuno gliel'ha comprato. Mi ne ho trovato un altro, 650. Ecco dopo che siano, da. Vabbè, mi vendono la ruota della macchina e me lo compro, deciso. Gianni? Gianni? Ehi, aspetta che sto guardando un secondo. È un bel apparecchio, è un bel apparecchio. Sei in buone condizioni, tipo il tuo che mi è sembrato quasi perfetto, ho capito che funziona molto bene. A seconda del momento, se non ce ne sono tanti in debita, magari così, anche perché non ce ne sono tantissimi, diciamo, però magari qualcuno si permette anche di fare un certo prezzo. C'è chi se li ha e si interessa e lo prende. Io tutti compro lo Yaesu. Bello quello Yaesu, bello. È proprio il mio tipico ricevitore. L'hai visto il mio? Compatto, 0900, così mi piacciono. Io mi sto rocchiando un bel apparecchio, se ce la faccio me lo prendo, se ce la faccio a giudicarmelo. Ma e di cosa si tratterebbe, signor Double? Vuole dire invidioso. Gianni? Gianni oggi va in intermittenza, è tipo la freccia, tac, tac, Tac, tac. Sono in mezzo a due fuochi, sto rispondendo a lei e sto parlando con voi, quindi quando mi chiama, cioè adesso sta mandando un messaggio, ascolta, cosa ti volevo dire? No, è un apparecchio vintage che a me piace molto, risulta azzurro metallizzato ed è un apparecchio con orologio meccanico, eccetera, eccetera, bellissimo, a me piace molto. Sì, dammi il numero che lo prendo prima io. E già stai bene. Ah, non è detto, già stai fresco, no? Ho capito di cosa si tratta. Quanti canali c'ha? 23 o 40? Signor risponde, c'è un po' di quel USB, la propagazione sta calando. Ah, è talmente lontano, poverino. Perché ha telefono con lei, capito? E allora un po' di troppo, un po'... Quante mani c'ha? Ma sono un po' eccolo. Già vi rispondo. Allora, non è... non ha molti canali, ha 25 watt, però c'ha 16 canali ed è un apparecchio base. Cappa, io ne ho uno per le mani, bellino, per 23 canali, tipo legno, eccetera, però ha pochi canali, cioè se prendo qualcosa deve averne 40 di canali, sennò ci spostiamo di qua, ci spostiamo di là, tanto non è che mi servono più di 40 canali, ma almeno 40 sì. Ci spostiamo, lui la stabilità è difficile, se poi si bisogna spostarsi va a parecchi, ne ho a gogo da spostarlo. Fabio! Fabio! Non me lo ricordo il modello esatto, però ho capito di cosa le sta parlando, infatti mi ricordavo che l'avevo scartato perché non c'aveva 40 canali, mi ricordavo 23 invece ne ha di meno. O sbaglio già? No, non lo sbagli, dai. E poi ognuno c'ha, sono di pensare, anche io avrei voluto con più canali, però cazzo, se tu vedi l'apparecchio mi dici bellissimo, prenditelo. Ah, il microfono cromato, bellissimo, guarda. Questo è il microfono, io devo cercare in cantina mia un microfono che ho d'epoca, ma d'epoca davvero, non vintage. Era un microfono che stava su un aereo della seconda guerra mondiale, su caccia, tipo caccia. Sì. Sì, è un microfono furioso, tutto pesantissimo, in metallo, sta in acciaio, con la griglia davanti. Devo andare in cantina a frugare, così trovo anche questi giornalini per Roberto, perché potrei avere qualche collezione di text, roba del genere, glielo prometto. Devo finire lì a vedere. Fabio! Cappa! A Gianni, se me lo fa comprare a me, io gli posso dare una bottiglietta d'acqua frizzante, o naturale, scegli tu, basta che mi fai comprare questa postazione base. No, quello oramai è fatta. È fatta, dai, ho incaricato un amico di farlo a me. Tu devi trovare una persona perché non so se la trova, lui non mi farò restare qua in radio. Basta. Va bene. Magari poi alla fine ce l'hai, te lo guardi, eccetera, il cartino glielo puoi anche prendere, magari tu. Adesso vedi com'è. Poi non si sa mai, no? Comunque sono bellini quelli là, ho capito. È roba americana. Me lo subito. No, grazie! Avete parlato insieme. Questa volta me la giudico. No, non te la giudico. Non puoi mai entrare in quel sito perché... No, vabbè, non ti posso dare indicazioni, però gente come me non può entrare, può entrare solo un tipo di persona, che non ti posso dire chi è. E scappa, è un gruppo. Più che un gruppo è, come posso dirti, qualcuno che ha studiato per la patente. Sì, scappa, è un gruppo di noti appassionati. Oh, che di nobili, di mafiosi! Mafioso sei tu, meme, oh yeah! E vabbè, poi ricapitare che una volta che se la giudica già è bello che se la giudica, no? Che ce l'abbia, magari se mando qualche foto, era una figata. Poi magari, cioè, le persone si stancano anche degli apparecchi. Ce ne sono che comprano apparecchi pure nuovi, dopo un mese, magari, non mi piace, non ha più l'entusiasmo di prima e lo mette sul mercato, magari a qualche euro in meno, capito? Tanto Gianni me lo darà altro che Gianni non lo può tenere, lo devo tenere io, ti mando anche più foto. Ecco, allora vediamo prima che ce l'abbia Gianni, una volta che ce l'ha Gianni in mano, vedremo di capire come è questa cosa, come cioè, e magari ce ne possiamo anche innamorare. Io mi ricordo che gli ho visti, servo anche uno per le mani, realistico, molto bello. So che col fatto che non c'ha abbastanza canali, cioè io non sono per collezionare le cose, io se una cosa ce l'ho, la voglio anche usare, capisci? Gianni doppio rum, cuomane! Lui è tornato dal nulla, Lucani. Ebbè, Lucrezia! Ebbè, Gianni Nannini! Tutto ok, come va? Luna come sta? Luna fa nanna adesso, bello, Luna, guarda Gianni, Luna, vieni lui, che ti vuole Gianni, vieni, sta guardando già, vieni tu e Gianni, vieni, vai con Gianni, va, vai Luna, se ci vuole venire. Ripresa, sì, Sì, qualcosa gli è sparita, ma secondo me, mi dispiace dirlo, non solo loro lavorano, ma a cavolo, stanno iniziando a spillare i soldi, a Maria lo stesso ieri ha problemi, forse a quanto pare l'ha fatta camminare troppo, gli fanno male le zampe di dietro, poi gli ha fatto una puntura, e poi la stava controllando, tutto qua, gli ha chiesto 30 euro, e poi gli ha detto, questo cane c'ha... praticamente ha la sabbia nella vescica, capito? Dei granuli di sabbia. Sì. Capito già. Gianni, no, che gli fa vedere tutto sparisce sempre, basta di rinforzare. Comunque, vabbè. E poi gli ha detto che deve fare la visita al cane. E sono altri di là. Infatti è incazzata Marina. Vabbè. No, raga. Avanti, Fabio. Campagna Roger. Tra un po' mi sa che vado a fare spesa, che stamattina veniva un po' sotto, pomeriggio faccio spesuccia e poi devo chiamare Riccardino perché dobbiamo vedere quella cosa. Riccardino, cosa vuoi passare oggi o no? Io se riesco a tagliare i tempi fino a questo di telefono e magari mi dici mi mandi la posizione così non sto lì a girare a destra e girare a sinistra. No, vieni oggi che ti faccio vedere la stazione. Ehi, andiamo in piedi. So che devo fare spesa prima, capito? Ma sei ancora qui, vai a fare la spesa. No, ci vado fra un quarto d'ora, alle 4:30, che è meglio. Cappa di Rogero, però fa in fretta. Cappa, devo solo prendere 200-300 euro di roba. Mi riempio il camper e ciao. E poi devi tornare a casa, e poi devi tornare, ti mando la posizione, vieni qui, ci metti un sacco di tempo, basta che vieni però. Vieni a capo, già se mi organizzo per venire, già ce la farò. Tanto comunque sia, quello che dobbiamo fare è anche una cosa di pochi minuti, perché una volta che la scena metti lo strumento, vedi cosa ti dice lo strumento, è fatta. Non c'entra niente, vieni qui anche per berti una cosa, guardi la stazione, non è solo per quello, oh mamma mia. Sì, certo, vabbè, una volta che sono lì, come ha detto Fabio, dice il ranch, faccio vedere il ranch. Va, lo so. Sì, va bene, bene. Gianni, e poi, hai cucinato quello che abbiamo preso stamattina? No, non l'ho fatto, lì avevo fatto il pollo, l'avevo precotto prima di uscire. Quando sono tornato a casa l'ho fatto continuare a cucinare e ci siamo mangiati una coscia io e una coscia a taglio, col pezzo attaccato. Aspetta però, le ossa di pollo a taglio, mi sa che... No, ossa non gliene do, gli tolgo solo la carne, la polpa. Infatti. Beh, contento era il pollo. Sì, era contento, se non era proprio slurpato tutto quanto. Gliel'ho fatto arrosto, di solito glielo faccio bollito senza sale, però gliel'ho fatto arrosto, la parte mia l'ho condita, la parte sua invece senza sale, capito? Però era buono lo stesso. Ci credo. Siamo un po' di poco, eh? Ah, mi ha sentito un attimo. Papa di capito. Questa bottina. E beh, ti vuoti, sì. No, no. aspetta che c'è il comodiare per spillare, arrivo subito. Yeah. Adesso cosa stai usando? Il Wrangler, come si chiama? Wrangler, come si chiama? Sta arrivando già, no, il solito apparato mio, quello omologato 4 watt. Boh, comunque questa 48 a me non è mai piaciuto e continua a non piacermi. Boh. Ci sei già? Sì, che ci sono. Ci sono. K. Oh, yeah. Queste donne francesi. In Francia li stai uscendo. Ah, l'ho detto per modo di dire. Non in Francia, ma lontano però da qua. Ah, secondo me tu sei cuocomane. E tu sei Lucrezia Borgia. Sì, molto cuocomane secondo me. Ha detto anche Natalino, l'ha detto. Così è. Oh, yeah. Aspetta un secondo, che rispondo. Non le lasci le donne, no, ti fanno male. Pericolose. Pericolose, sì. Donna. E tu fa? Sposato, fidanzato? Ho fatto tutto, ero la tua faccia di sensi, single. Ah, così, eh? Dai, è un periodo di riposo, oggi questi casini quasi, me lo merito. E magari trovi qualcuno che ti faccia rilassare. Aspettiamo un po', dai, ancora sono in vacanza. Cosa ho fatto? Ancora sono in vacanza, non so cosa aspetto, capito? Aspettiamo un po', non mi fa male. Oh già, ma è per caso tu c'hai un pezzo di stoffa per fare le mascherine? No, non saprei da dove prenderla, no? Ti sto qua su un meglio, dai. Sono meglio perché... se puoi lavare, capito? Ma ci sono, vai in farmacia e compri quelle che puoi lavare, io non le ho comprate lavabili, le paghi in cuiro, ma non manco. C'hai delle mascherine che puoi lavare. No, stavo sparando in cucina. Da vedere se mi sento qua. Mi sento pure qua, che figata. Gira, 1, 2, 3, e mi sa che si è capito da cambiare qua. Tu muovi anche lo sinistro. Che bellino. E avanti. Questo è un po' comune. Vai. Un po' comune. È finito. Guarda che c'è quel po' comune di Natalino anche. Ma di già il doppio rumbo Natalino. Ciao Natalino, ciao a tutti, mi accetto, vado a far due tiri. Ciao Riccardi, ciao Natalino. Ciao Gianni, buonasera, ciao Luca, buonasera, anche se sei cuocomane. Ma ti fai i piedi, cosa hai detto Riccardi? No, che vado a fare due tiri. Sono capito, vado a farmi i piedi. Ma tu sei matto. Comunque Natalino, tu non mi hai salutato, avanti Luca. Riccardi, così ho capito, cosa ne so, boh? Fatto due tiri con cosa? Con la carabina? Con la carabina, mi metto la bottiglia d'acqua. Bello. Aiù, a te la corri, tu con la carabina e io tiro con la pistola. A vedere se ti batto. Vabbè, fammi andare a fare due tiri, ci sentiamo più tardi, sono qui comunque, tanto sono vicino. Ciao Riccardi. Ciao Riccardi, a dopo. Ciao a tutti, ciao Natalino, Fabio, Gianni, Luca e agli ascoltoni, orecchie di porco. E intanto sono qui, faccio altri due tiri. Ma così, fai così. Però vai. Avvento. Vabbè. Ehi. Ma Azzardo non c'è. No, non c'è Azzardo. Azzardo ci sei? Gianni, cosa stai facendo? State chiamando, non ho capito. A Gianni stavo chiamando. Tu Gianni ti chiami, tu ti chiami Riccardino. Ehi Natali, scusa, c'ho un dialogo e ogni tanto mi chiamano. E quindi a volte non posso rispondere subito, rispondo un po' più in là. Avanti, dimmi Natale. A vedere cosa stavi combinando, volevo sapere. Sono sdraiato e sto chattando una persona. Sono sempre unghici femmini e buh. E tu cosa ne sei femmina o no? E allora Finocchio sei diventato? No, dimmi, no. Ma non è anche trans, no, già. Cosa? Non è che sarà anche trans. È un'amica mia, dai. Ah, vabbè, dai, amica, vabbè, dai, chiamiamola amica. Quella con la M, così è. Adesso ti interrogo. Quella con la M, quella L, N, O, quella con la P, la Q, la E. Ma mi vedi in TV, sì? Ti ribelli? Vai, Gianni può cuore. Certo che sì, non la gente c'ha la pitnosa. Mica può come una virus, Gianni, doppio root. Gianni il caldo. Ma se può fare che ce ne ha un Gianni, davvero. Un attimo di te qua, prendo un po' d'acqua, va. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Oh, yeah. Vabbè, non ci pensiamo. Metto. No, no, non pensiamo, per carità. Cos'è quello che mi ha fatto bene alla schiena? Però mi prendo quelle, telefono al dottore e gli dico a vedere se le posso prendere quelle lì a farmi la ricetta immediata. Ma dai, non mi ascolti. Oh, non mi piace il cristiano. No, però non le rispondo, bisogna abile lui, ci sarà rotto le scarpe. Fazzarona. Cosa c'è già? Cosa c'è? Mi sta sciblando. Oh signor. Ui. Chi è che ce lo compra un decoder satellitare? Martari, guarda che c'è un modo per prendere le televisioni, se proprio devi farlo. C'è una scatoletta che vendono su internet e praticamente la colleghi solo alla wifi e ti fa vedere tutti i canali che ti piace. Ehi, dai, te lo la prendo io ancora, così ci stai. Tu lo vuoi? Adesso non mi serve la cosa, glielo do a te Riccardini il decoder, se lo volete voi già ve lo do a voi, non c'è problema, dai. È che già l'hanno lasciata l'antenna, stavo guardando fino a poco fa a vedere, non la toccano, no, che non gli conviene. Ma se dovessero toccarla, esiste questa scatoletta, te lo sto dicendo, e praticamente tu l'attacchi alla wifi, a internet, e pigli tutti i canali che ti piacciono. Primo colpo. Cosa? Ho preso al primo colpo la bottiglia d'acqua. Ah, bravo. Adesso io prendo al primo colpo la radio che piace a te. Duca, ma la prendo io fra un po', ti stanchi? Se ci riesco la prendo, se no pazienza, si rabbia le luci. Anche un buon prezzo, Riccardi, è un buon prezzo pure, basta là. E cosa? È un apparecchio base. Ah, un apparato a bae, anche a me mi piacciono quelli, ma purtroppo non ribusso di lì, bisogna che risolvo questa questione, boh. Vabbè, dai. Avanti, master. Appagappa, è che Antonio non mi ascolta. L'altro giorno lo sentivo, adesso non lo sento, ma Fabio. Anche qua. Aspetta, Natalino, un attimo, sta parlando a ver cosa dice. Ancora, capito. E perciò si recupera i soldini che ha speso, se no li ha buttati. Infatti, non ho capito io. Allora. Non ho buttato nessun soldo, sono tutti... ho preso roba per un buon prezzo, non ho buttato via niente. No, infatti, parlavo di Natalino, che ha preso un decoder, che non può usare in questione di posizione, lo stavo dicendo a Fabio. E visto che l'ha appena comprato, che è nuovo di zecca, e che lui lo terrebbe parcheggiato, tanto vale che se lo venda, magari lo dà a voi, capito? Già lo so, che così almeno ce lo mettiamo alle stampe. Comunque, Fabio, dopo te la faccio provare, vediamo se anche tu riesci a farla al primo colpo. E io sono tanti anni che non ho fatto. E cosa, Riccardino? Bina. Porto la mia. Elisa, voi c'ho, al primo colpo ho preso la bottiglia, me la sono messa sopra una cassetta di Coca-Cola e ho puntato al primo. Vedi, cappa. di quelle a funghetti, è così, ce l'avevo anch'io quella lì, solo che la mia, quella che ho adesso, è a palla, è pericolosa, imbatte 1500 metri, apparecchi da segno non è che vada tanto bene. Ma cosa no, questa va bene, è di quelle con i proiettili a freccia. Comunque c'ho il fucile a pompa, americano. Ah, la faccia tua, calibro 12. Io c'ho i cavalli alla faccia tua e io c'ho le stazioni in base alla faccia tua. E io non le posso tenere, se no me l'avrei comprata, già lo sai. E poi non c'ho posto qua per tenerle, perché è troppo piccola la casa e non c'ho posto. Però tanto non li puoi tenere, che sono, se non sono marcate CE, non devo tenere questo qui e basta, che ho omologato. Uno si è cambiato un'antenna ieri, dove ce le ho io, no? Ne ha tolto una vecchia e ne ha messo una nuova del tipo vecchio, come quella che ne ha tolto. Ma speriamo che non lo disturbi. Io. Ma chi è quello che ti lo portava a scatolate o no? E dove c'è l'antenna mia, no, ce ne sono altre due di antenne, no, ne ha tolto una, deve essere che la marcia, il tecnico, e ne ha messo una nuova, ne ha messo, l'ho visto io, ieri sera, è successo qua, e le mie non le hanno toccate, chi si toccano i miei, guai, io non vedo la televisione, però, non gli conviene accostare con me perché li denuncio subito. E adesso basta, mi stanno perseguitando troppo. Minacciano mia moglie. Ma lo sai cosa tutto mi hanno fatto già? Io. Scappa, non per la scala per andare a fare. Va bene, mi sono dimenticato di mandarti la posizione, adesso la mando, che tanto mi assento anche io. Oh, se vedi, ho trovato un National Panasonic sempre lì. Cosa hai trovato? Ho trovato sempre, sai dove, uno stereo National Panasonic. Ma vai, e com'è? Quelli vecchi, Doppel PS, di quelli vecchi con la manopola, che fanno praticamente dagli 88 ai 808 per gli stereo. Ah, è un sintonizzatore FM, l'opa del FM. Sono belli apparecchi, solo che io di posizione ne ho già un pezzo, perciò l'idea proprio era se ha visto qualcosa, sarà qualcosa che ma no, se ne faccio vedere, se ne faccio vedere di quel tipo, anche di quegli anni, ne avrò, non lo so, ne avrò un po' di va bene, è troppo. Guarda, va bene, scusa se entro adesso vado a farmi altri due tiri che mi sta piacendo, che mi sta piacendo, è da tanto che non ne faccio tiri. Scappa di casa, dai, scendiamo dopo, qua la mia posizione, dopo siamo, cazzo, non rubo su Aria, ma a Fabio Matter non lo sento. Arriva a segnale 9.40, non lo senti a Fabio? Nulla, zero. Dovrebbe alzata almeno 2 metri questa antenna, non hai compreso? È troppo bassa, esce un metro di tubo dal tetto, è un bel bassa. Cazzo, l'altro giorno però lo sentivo a Fabio, è quello che non capisco perché non lo sento adesso. No. Lo so, ma quale va benissimo, lui ha voglia. Vabbè, io la chiudo alla 25 e alla fine non c'ho antenna, se mi avvicinano antenna. Diciamo, sento i più forti, ecco, quello sì. Fabio arriva basso basso, però lo sento. Andave. E perché non c'è antenna ancora, ma Fabio, quando si cambia l'antenna, che mette l'antenna, ridiamo. Qua. E sì, ciao Fabio, buona spesa, più tardi. Ciao Fabio, ciao. Ciao Fabio, se mi senti, adesso non so neanche se mi sente lui. E oggi non sento, è più alto del 2 metri. Qualche cosa mi sono, però oggi è chiaro chiaro. Fabio, a dopo. Riccardia, mi sente Fabio quando parlo? Poco sopra il QRM. Addirittura. Ma. Vabbè, queste antenne cambiate te le hanno lì. No, no, non le hanno toccate, non le possono toccare, no. Che c'ho il foglio qua, mi sono informato via internet. Non le, si mi ritoccano il riso così non si endimi. Per danneggiamento. Loro non le possono toccare. La parabola, questo il vicolo è troppo stretto e non prende il satellite, perché c'ho anche la parabola, no? L'ho comprato col ricevitore satellitare. Però qua non c'è verso di farla funzionare, va a fanguarla, ho speso tanti soldi per nulla. Perché c'è all'interno del vicolo magari. Però non c'entra niente, si è posizionata bene, evidentemente non so, non lo intendo io. Con Roberto dovresti parlare di queste cose. Buonasera a tutti, dai. Sono andato a salutarci, già sono in ascolto. Yeah, ciao Claudio. Ciao, ciao a tutti. Ciao Cla. Buon ascolto allora. Chi è che chiama? Checco Mastero. C'è uno che ti sta chiamando, Riccardi, non so chi sia. Già lo so, mi chiamano sempre, ma li lascio perdere. Ne prego. Lascialo cantare, c'ha bella voce. Se non si presenta non lo rispondo neanche. Ma mi stai ascoltando il radio, Natalia? Più basso mi bari del solito. E io? Il radio? Sì. Questo è il turner con il baracchino, non so, ma tanto non lo uso. Ehi già, oh, è radio 5, non è il volume che hai di solito, diciamo così. Ah, del capa. Mi bari ovvio. E lì non c'è il volume, lì è un'altra gubba. Va bene, l'importante è che mi sentite. C'è la radio buona, già va bene. Ok, rimane in ascolto, dopo se coincide, se no è prossimo. Ehi, ciao Fla. Ciao Claudio. Ui Zanca, non posso camminare, mi manca di stampella. Non so che sei due però, mi. Riccardi, non so che sei mi. Sta lì, aspetta un attimo, che se mi faccio altri due tiri, fammeli fare. Però non so che sei mi. No, non tocco niente, non so che sei, non tocco. Davvero? Ma vero? Allora, davvero. Ok. Ok. No. Oh, yeah. Sono tornato, c'è qualcuno ancora? Natalino, Luca, Claudio, c'è qualcuno ancora? Io sono qui. E Averru non c'è? Sta lì. Oh, dimmi. Non hai niente a raccontarmi. E cosa ti devo raccontare? Che ero con Riccardo e non sono uscito tutto il giorno. Cosa? Ciao Riccardino. Concetta. Stai facendo da bravo Riccardino? Sto facendo da bravo. Salino. Uia. E beh, oggi quindi sei in torto, sei... no, non vuoi parlare. Non ho capito. Che non vuoi parlare oggi. E perché non sto parlando? Ecco. Adesso, ma no, in generale non stai parlando, stai parlando perché te l'ho chiesto, se no non stavi parlando. Sto guardando roba al computer, capito. A casa aspetto che entri Lucrezia. Ma vero? Ma vero carino, ho visto che stai vendendo tutto perché. Mi servono? Stavo fanno per la luna. Minchia cazzo, non si è ripresa per niente, no? No, si è ripresa, sì, però ha più tumori alle mammelle. Se non, cioè, mi ha detto che se non vuoi che gli venga di nuovo qualcosa, che gli è venuto, allora la devi operare. se mi costa tra cosa e l'altra 600 euro. Maledetti soldi, dal casino, i cani ci vogliono soldi, ho venuto da lavare, e il mio non l'avevo operato io, all'ernia, mi è costato 200 euro. Lo so, purtroppo se ci vogliono soldi sì, adesso vuoi fare, va bene, adesso vediamo. Vidimmo, che purtroppo ha l'età che ha, però conviene o non conviene, perché ha 12 anni, potrebbe morire anche sotto i ferri, quindi di 700 euro devo dare un mattessi, sono solo 600 euro, sono 600 euro, chi so. A me non mi è costato 1500 euro quando avevano morsicato a Curcio e gli avevano troncato la zampa in tre punti. Quattro operazioni l'hanno invato. Lo so, i cani sono dei costi di mantenimento non allucinanti, vaccini e quello per l'altro, non lo so. Poi quando c'è qualcosa così che devi operarlo, o ce li hai o se no sei obbligato a venderti qualcosa per poter sistemare il cane, che è veramente una vergogna. Perché a noi ci operano e non dobbiamo pagare niente. Ai cani non ho capito perché non c'è lo stesso trattamento. Se un cane va curato, c'è l'ospedale veterinario e si opera. E invece devi pagare, capito? Devi andare al veterinario tuo per farlo curare. È veramente una vergogna, cazzo. Poi limitano, mettono la pena per chi maltratta i cani. Tu capisci? Allora, per i cani perché è un lusso. Vabbè, chi ha un cane è un lusso per loro, capisco ecco perché. È un lusso, vero, però mettono una... c'è un decreto legge che se maltratti il cane è cazzo da retani, ed è un lusso, capisci? È un lusso, vabbè. È un lusso, Lucio Gribonghi ha in capo a tutti quanti. Sono leggi sbagliate, Luca, non è un lusso, sono leggi sbagliate. Perché il cane oggi, come oggi, fa parte della famiglia, qualsiasi tipo di animale, capito? Qualsiasi tipo di animale fa parte della famiglia e quindi va curato come deve essere curato, come una persona, perché esistono le cliniche veterinarie come sono convenzionate dallo Stato, e invece non ti fai assolutamente nulla. E lì ogni volta che fai sono dai 30 ai 50 euro. A taglia minima, di tu, io ogni volta che ando sono 80, capito? Fortunatamente ci vado poco, ma nel periodo che anche il mio è stato male, in una settimana ho fatto 500 euro, hai capito? Quindi, sono veramente vergognose queste cose, più vergognose, mi pone la legge e fatto l'inganno subito. Pazienza, però ci devo pensare un po'. Adesso ha fatto questa visita, adesso deve farne un'altra, mi costa 70 euro la visita al cuore. Tanto hanno già detto che il cane c'ha questo soffio al cuore, poi magari faccio la visita e poi mi dico che non è operabile, mi si va a tenere la patina così. A me è la stessa cosa, quando mi hanno trovato appunto che è stato male, che non ce la faceva camminare, era sempre a dolori, gridava al cane, si lamentava eccetera, per essere sicuri, perché secondo il veterinario era un'artrosi nostra praticamente, capito? Invece mi hanno fatto fare la risonanza magnetica ad Oristano, a Chirogano Venera, e mi è costata 550 euro, 50 di visita e 50 euro di gasolio, hanno detto, là. Hai capito? Così funziona, purtroppo funziona così, però secondo loro è un bene di lusso, appunto siamo in Italia. È uno schifo, vabbè, purtroppo. Infatti ieri abbiamo portato quello di Marina, c'aveva problemi che ha le zampe, boh. Tra una cosa e l'altra 30 euro, scusi me. E poi lei l'ha portata per un problema e gli ha trovato un altro, e voleva che...